Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17:10, venerdì, ultimo giorno di questa settimana. Andiamo subito a vedere che cosa sta succedendo sui listini, una giornata piuttosto debole, anche se comunque con il segno più, e che ha trovato nuovo vigore dopo l'apertura dei mercati statunitensi. In questo momento il Dow Jones guadagna uno 0,75%, il Nasdaq lo 0,27%, lo Standard & Poor's lo 0,43%. In Europa, Parigi è in progresso di poco più di un punto percentuale, Francoforte guadagna uno 0,44%, Londra l'1,12%. A Milano il FTSE Italia All Share guadagna lo 0,48%, il FTSE MIB lo 0,50%. Il miglior titolo lo è sempre stato fin dalle prime battute Mediolanum, più 6,91%, grazie ai dati della raccolta relativi al mese di maggio. Bene anche Saipem, meno 4,13%, Italcementi guadagna il 2,69%. In fondo al listino invece il peggior titolo è Mondadori, che cede il 3,46%. L'Automatica c'è del 2,21%, la Banca Popolare di Milano l'1,62%, Parmalat l'1,59%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,40,17 sul dollaro. Gli approfondimenti di oggi. Oggi è una giornata del tutto particolare in Italia, ma anche in Europa, perché è dominata dal dibattito politico, visto che domani si vota. Però noi parleremo di Fiat, perché questa mattina ha parlato ancora l'amministratore delegato Sergio Marchionne, non è del tutto esaurito l'interesse su Opel, e poi si è parlato anche delle possibilità di altri e nuovi accordi. Andremo negli Stati Uniti per parlare della disoccupazione, salita al tasso record del 9,4%, ai massimi da 25 anni a questa parte. E poi parleremo del settore turistico, in particolare parleremo di crociere, perché nonostante il calo del turismo negli ultimi 2 anni, questo particolare comparto non ha subito flessioni. Cominceremo però con una intervista con uno degli economisti più noti al mondo, Nouriel Roubini, soprannominato da molti Dr. Dumb, Dottor Disastro, per le sue visioni permeate, diciamo così, da un certo pessimismo. Adesso però vediamo quali sono le notizie in breve di oggi. Partiamo dal petrolio, vola oltre i $70 in apertura a New York, oltre la soglia dei $70, raggiungendo $70,32 durante gli scambi elettronici di qualche minuto fa. Nei primi scambi al NYMEX di New York, il greggio, dopo aver rallentato la sua corsa, ha guadagnato lo 0,3%, intorno ai $69 al barile. Torniamo a parlare di Euribor. L'Euribor a 3 mesi, il tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali nella valuta europea e che applicano anche ai mutui variabili, oggi è salito di un punto base, attestandosi sull'1,27%. E poi le dichiarazioni di Sergio Marchionne, quindi siamo in Italia, Fiat Opel, l'interesse rimane, non dipende da noi, così Marchionne ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se c'era ancora un interesse per la casa automobilistica tedesca da parte del Lingotto. Tecnicamente, ha aggiunto, riferendosi alla trattativa in corso, non è chiusa, vedremo. E poi ancora, sempre su questo argomento, se dal governo tedesco una telefonata arriva bene, ma non la stiamo aspettando con ansia, questo è quanto ha detto Marchionne, se arriva arriva, altrimenti continuiamo a fare il nostro lavoro. Il pensiero dell'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne su un eventuale reingresso della Fiat nella trattativa sull'acquisizione Opel è appunto questo, quindi si aspetta, ma insomma non con troppa ansia. E poi Marchionne ha anche risposto in merito al quanto fatto o non fatto, secondo alcuni, dal governo italiano in tutto il corso della trattativa. Il governo italiano, con tutto quello che si è detto, ha fatto quello che doveva fare, è stato lontano da questo problema, ha detto Marchionne, deve continuare a stare lontano fino a quando il progetto non si concretizza. Questo è quanto ha sottolineato Marchionne. Economia internazionale, lo dicevamo in apertura e ne parleremo poi anche nel corso del programma. La disoccupazione negli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione è salito a maggio dall'8,9% al 9,4%, il livello più alto da 25 anni a questa parte. Però sempre nel mese di maggio l'economia statunitense ha perso 345.000 posti di lavoro, meno dei 520.000 previsti dagli analisti. Ciò non toglie però che dall'inizio della recessione, intorno alla fine del 2007, gli Stati Uniti hanno perso 6 milioni di posti di lavoro, l'emorragia più acuta dai tempi del dopoguerra. Restiamo negli Stati Uniti perché il presidente Barack Obama ha detto oggi di aver visto qualche progresso nei tentativi di riportare stabilità all'economia mondiale. Obama ha detto di aver concordato con la cancelliera Angela Merkel che occorre lavorare insieme strettamente per continuare affinché questi progressi ovviamente vadano avanti. Dagli Stati Uniti alla Germania, la banca centrale tedesca ha stimato oggi che il prodotto interno lordo del paese subirà nel 2009 una contrazione del 6,2%. Lo scorso 29 aprile il governo ha previsto per quest'anno un calo del PIL del 6%, mentre il Fondo Monetario Internazionale nel suo World Economic Outlook aveva previsto per la Germania un meno 5,6%. In Italia, torniamo da noi, lo Stato è vicino ai cittadini che sono in difficoltà, il governo sta lavorando per innalzare il bonus di una tantum ai lavoratori Coccopro. Questo è quanto ha affermato il premier Silvio Berlusconi, ospite questa mattina della trasmissione Radio Anch'io, parlando proprio delle misure a sostegno dei precari. Poi si è svolto a distanza, un piccolo botta e risposta, a distanza sia fisica ma anche temporale, tra Berlusconi e le affermazioni del governatore di Banca Italia Mario Draghi, nelle conclusioni di Banca Italia della fine di maggio. Questa è un'informazione del governatore che non corrisponde alle cose che emergono dalla nostra conoscenza della realtà italiana. Così il Presidente del Consiglio ha contestato quanto affermato dal governatore Draghi, che ha parlato di 1,6 milioni di lavoratori che resterebbero senza sostegno in caso di perdita del lavoro. Sentiamo Berlusconi. Per quanto riguarda chi ha un lavoro, nessuno resterà senza aiuto. Per quanto riguarda i Coccopro, ho parlato di una percentuale, lei mi dice che è il 20%, noi stiamo anzi lavorando affinché questa percentuale venga giustamente innalzata. Ma il 1,6 di cui parla Draghi? E questa è un'informazione del governatore che non corrisponde alle cose che emergono dalla nostra conoscenza della realtà italiana. Ma sentiamo quanto aveva detto il governatore di Banca Italia Draghi durante l'assemblea dello scorso 29 maggio. Si stima che 1,6 milioni di lavoratori dipendenti e parasubordinati non abbiano diritto ad alcun sostegno in caso di licenziamento. Tra i lavoratori a tempo pieno del settore privato, oltre 800.000, l'8% dei potenziali beneficiari, hanno diritto ad un'indennità inferiore a 500 euro al mese. Va colta oggi l'occasione per una riforma organica e rigorosa che razionalizzi l'insieme degli ammortizzatori sociali esistenti e ne renda più universali i trattamenti. Allora, intanto vi ricordo il numero a cui potete inviare i vostri sms: 349-238-6666, per quanto volete dirci, dubbi, domande, perplessità, per quanto sarà il nostro potere cercheremo di rispondere. E adesso siamo arrivati proprio al primo dei nostri approfondimenti. Come preannunciato in apertura di programma, l'intervista a Nouriel Roubini. È l'economista Roubini, il bocconiano dell'anno. Il riconoscimento gli è stato consegnato ieri in occasione dell'annuale convention dell'Associazione Alunni della Bocconi. 50 anni, nato a Istanbul, Roubini è docente di economia alla Stern School of Business della New York University, è uno dei più influenti economisti al mondo, è laureato in economia politica alla Bocconi, si è laureato nell'82, è stato consulente per la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e altre istituzioni pubbliche e private. Roubini ha conquistato una certa notorietà negli ambienti della ricerca economica e finanziaria per aver previsto, unico economista, la crisi dei mutui subprime americani. Il nostro Sebastiano Barisoni lo ha incontrato. Sentiamo l'intervista. Professor Roubini, era il 7 settembre del 2006 quando lei per primo, non per la prima volta devo dire, ma nel consesso più importante, Fondo Monetario Internazionale, disse: attenzione, c'è una bolla immobiliare che rischia di travolgere l'intera finanza e casomai anche l'economia americana. Purtroppo ha avuto ragione. Vorremmo conoscere le sue prospettive in questo momento, partendo dall'America, dopo l'allarme lanciato due giorni fa sul deficit americano, come immaginabile, oltre ogni previsione. Bene, siamo ancora in una crisi economica globale, c'è ancora una recessione negli Stati Uniti, in Europa, nel Giappone, anche in alcuni paesi emergenti. Chiaramente le azioni di stimolo monetario, fiscale, creditizio che vari paesi hanno fatto migliorano le condizioni, siamo più vicini alla fine di questa recessione di quanto lo fossimo sei mesi fa, il rischio di una depressione si è ridotto, ma le azioni che sono state prese dalle autorità monetarie e fiscali creano altri problemi. I deficit fiscali stanno crescendo, il debito pubblico rispetto al PIL in molti paesi sta crescendo eccessivamente. Questo aumento del debito potrebbe alzare, come è avvenuto nelle ultime settimane, i tassi di interesse a lungo e quindi ridurre poi la domanda privata. E c'è anche il rischio che poi alla fine ci sia un incentivo a monetizzare questi deficit, perché c'è un incentivo a stampare moneta per finanziarli, e se ciò dovesse avvenire fra un paio d'anni c'è anche il rischio di un aumento dell'inflazione come ci fu negli anni 70. Quindi queste azioni di stimolo monetario e fiscale sono necessarie per evitare che la recessione diventa peggiore, più pesante, ma dall'altro vi sono anche delle conseguenze che a medio termine sono di grosso rischio. Lei sta parlando però di rischi questa volta, mentre nel 2006 sia a Davos che al Fondo Monetario parlava quasi di certezze, di situazioni che si sarebbero verificate visti i segnali precedenti. Il fatto che lei parli di rischi vuol dire che non è così certa la piega, l'indirizzo che prenderà la parte finale di questa crisi? Sì, in un certo senso era più facile prevedere questa crisi tre anni fa, perché vi erano queste bolle che dovevano scoppiare, i mutui, le case e così via. A questo punto la situazione è molto più complicata, perché siamo già in un anno e mezzo di crisi economica finanziaria, vi sono le azioni per ristimolare l'economia, vi sono altri rischi di altro genere, quindi direi che vi è più incertezza e volatilità adesso su quanto sarà il futuro, non lo sappiamo. Restando ai vari paesi, lei sull'America ha già illustrato le sue preoccupazioni, il rischio che un deficit eccessivo poi porti a stampare moneta, quindi rischio di fatto inflazione. Dove e da dove potrebbe arrivare una ripresa, un effetto locomotiva sull'economia mondiale? Non dagli Stati Uniti, mi sembra di capire, poi verremo all'Europa, c'è chi dice l'Asia e nel caso specifico Cina e India. Certamente vi sono più potenziale di grossa crescita nei paesi emergenti, specialmente nell'Asia, in Cina, in India e in altri, però siccome molta della crescita di questi paesi era dovuta alle loro esportazioni verso gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone, a questo punto la domanda interna degli Stati Uniti sta cadendo, i consumi stanno cadendo, le importazioni stanno cadendo, quindi un modello di crescita come quello cinese basato solamente sull'esportazione non funziona più. Se la Cina vuole tornare a crescere ad alti tassi deve cercare di stimolare la domanda interna, specialmente la domanda privata interna e i consumi, e questo ci vorrà molto tempo, vi sono fattori strutturali che rendono il tasso di risparmio in Cina alto e il tasso di consumo basso. Quindi anche i paesi emergenti in un certo senso non possono essere una locomotiva per la crescita mondiale, perché fino adesso dipendevano dalla locomotiva americana e dall'esportazione agli Stati Uniti, quindi devono ripensare il proprio modello di crescita per poter diventare degli strumenti di crescita mondiale. E quindi sviluppare una domanda interna, come si direbbe. Quindi non c'è nessun elemento, non dico di ottimismo, ma di speranza che la situazione possa non portare poi a una difficoltà di budget e quindi deficit e debito e quindi rischio inflazione per eccesso di moneta stampata? Dipenderà da cosa faranno i governi l'anno prossimo. Quest'anno, data la recessione pesante, non vi era grossa scelta, bisognava avere uno stimolo fiscale con deficit enormi, bisognava stampare moneta per evitare una stretta di liquidità. L'anno prossimo invece ci devono essere delle fonti di domanda privata per la crescita e bisogna cercare di ridurre i deficit fiscali, altrimenti a livello di medio termine c'erano rischi di sostenibilità del debito e o se si monetizzeranno questi deficit ancora anno dopo anno, dopo c'era un rischio di inflazione, quindi bisogna pensare al medio termine. Passiamo all'Europa. Proprio ieri la Banca Centrale Europea, nel lasciare i tassi invariati, ha però rivisto a ribasso tutte le stime di crescita per il 2009 e anche sul 2010 ha detto attenzione, l'anno si potrebbe chiudere nell'area euro tra un meno 0,7 e un più 0,4, per cui se va bene stiamo fermi, se va male è un altro anno di recessione. Vorrei un suo commento e giudizio sulla politica della Banca Centrale Europea e più in generale sulle prospettive dell'area euro. Certamente quest'anno sarà una grossa recessione e l'anno prossimo nell'eurozona c'è il rischio praticamente di crescita intorno al zero. La crescita potenziale nell'eurozona è del circa 2%. Secondo me, se questa è l'analisi della Banca Centrale Europea, dovrebbero rendersi conto che una politica monetaria più espansiva può aiutare a stimolare la crescita, perché sono preoccupati dell'inflazione, ma francamente dov'è l'inflazione? Data la mancanza di domanda aggregata rispetto all'eccesso d'offerta, data la debolezza dei mercati del lavoro, il problema nei prossimi due anni sarà un problema di deflazione, non di inflazione. E quindi secondo me la Banca Centrale Europea ha fatto troppo poco e troppo lentamente rispetto agli Stati Uniti, la Svizzera, l'Inghilterra, il Giappone e altri paesi. E il rischio è che questa stretta monetaria in termini relativi rallenterà la ripresa dell'economia europea. Va detto, non abbiamo mai difeso la Banca Centrale Europea, che la Banca Centrale prevede deflazione quest'anno e che ormai i tassi europei sono all'1%, è difficile forse portarli ancora più in basso. I tassi sono all'1%, però altri paesi come gli Stati Uniti, Giappone, Inghilterra e Svizzera prima li hanno portati al zero, poi hanno fatto questi stimoli di quantitative easing in cui hanno aumentato in maniera massiva la base monetaria e poi hanno intrapreso anche una serie di altre operazioni non ortodosse come comprare titoli governativi a lungo termine o titoli del settore privato per cercare di ridurre i tassi privati, di stimolare la spesa, il consumo, i mutui, l'investimento. Quindi non basta avere tassi all'1, non basta nemmeno averli a zero, bisogna fare delle cose che tradizionalmente sono un po' esoteriche e non conventional, ma che in una situazione di estrema crisi finanziaria sono necessarie per stimolare la moneta, il credito, la domanda e l'economia. Ecco, mi sembra di capire che lei ritenga che i rischi invece di una tenuta del sistema bancario mondiale li abbiamo superati grazie appunto a questa grande spesa di soldi pubblici, di deficit che si è imbarcato. Vorrei passare all'Italia e alla Francia, perché si dice sempre, o perlomeno in questi mesi, che la Francia e l'Italia sono i paesi messi meglio. La Francia perché ha un welfare che sta mantenendo i consumi interni abbastanza buoni, l'Italia perché ha un'industria manifatturiera importante, anche se di piccole e medie imprese, e perché le banche italiane, come dice il ministro Tremonti, non parlando inglese, non avevano acquistato questi prodotti tossici, anche forse per un po' di arretratezza o di tradizionalismo. In un certo senso è vero che la crisi finanziaria non è così pesante in Italia, ma la crisi economica è ancora più pesante che il resto dell'Europa o negli Stati Uniti. In primo luogo l'Italia è già in recessione da un paio d'anni e quest'anno il PIL probabilmente cadrà del 5%, negli Stati Uniti si prevede cadrà solamente del 3,5%, quindi è vero che le banche che non avevano eccessivi asset tossici non hanno gli stessi problemi delle banche americane, ma l'economia reale è abbastanza in una grossa crisi e non si sa quando l'Italia ne verrà fuori. Quindi questo atteggiamento di dire non avevamo i problemi dell'America, ma non avevamo gli asset tossici o non abbiamo bisogno delle riforme o le cose vanno benino, francamente non vedo, non vanno bene per niente. Non c'è reddito, non c'è lavoro, non c'è domanda, non c'è ripresa. Quindi la crisi reale è ancora molto pesante. E qui mi ricollega un suo famoso scontro a Davos nel 2006 con il ministro Tremonti, quando lei disse attenzione, l'Italia senza riforme corre un rischio Argentina. Vorrei capire se lei ritiene ancora che questo rischio sia reale e a quali riforme sta pensando anche per dare qualche soluzione. Beh, io direi che in giro, non solo in Italia ma nel resto anche dell'Eurozona, il rischio che abbiamo adesso è che ci sono dei deficit pubblici che stanno salendo, il debito pubblico rispetto al PIL sta salendo e l'altro giorno il governatore Draghi ha detto giustamente che se questi deficit fiscali continuano l'Italia rischia di andare di nuovo a un decennio fa quando il debito rispetto al PIL del settore pubblico era al 120%. E la stessa cosa potrebbe avvenire in Belgio, in Austria, in Grecia, in Spagna e così via. Quindi è un problema di deficit fiscale e di sostenibilità del debito pubblico in tutta la zona europea e qualcosa deve essere fatta. Cosa bisogna fare? Secondo me la cosa cruciale è che bisogna crescere, bisogna avere un aumento della crescita economica, della crescita della produttività. E per aumentare la produttività bisogna fare tutta una serie di riforme che sono più microeconomiche e strutturali per stimolare essenzialmente l'investimento privato, di ridurre la spesa pubblica, la tassazione, di aumentare l'efficienza del settore pubblico, di rendere più flessibili i mercati del lavoro e dei beni e dei servizi. Vi sono tutta una serie di riforme che si stanno discutendo, che sono importanti. Anche la riforma delle pensioni le vede tra queste, cioè aumentare l'età pensionabile? Certamente, prima o poi bisogna fare anche la riforma delle pensioni. Quale combinazione di aumentare i contributi, ridurre i benefici, piuttosto che allungare l'età pensionabile è una questione più tecnica, ma chiaramente deve essere parte della soluzione, anche la riforma pensionistica. Lei si è laureato qui alla Bocconi nel 1982, al di là del fatto che quando si è più giovani tutto è più bello, ma l'Italia di allora secondo lei era meglio di quella di adesso, peggio o sostanzialmente uguale? Il mondo è cambiato, anche l'Italia è cambiata, i problemi sono diversi. Allora ci sono stati due shock petroliferi, si parlava di stagflazione, alta inflazione e caduta della crescita o recessione. Questa volta invece vi è una recessione, vi sono rischi di deflazione, il debito pubblico adesso è ancora più alto di quanto lo era circa 20-30 anni fa. Chiaramente vi sono delle grosse differenze. Per certi aspetti l'Italia è migliorata, vi è stata ristrutturazione di certe parti del settore privato e sono diventate più competitive. Dall'altro adesso l'Italia ha tutti i vincoli di essere una unione monetaria dove non ha politica monetaria indipendente, una politica fiscale indipendente, una politica del cambio indipendente, e ciò vuol dire che a meno che vengano fatte riforme strutturali che aumentano il tasso di crescita dell'economia, quella perdita di competitività non può essere aggiustata tramite il cambio o altre cose, quindi i vincoli sono molto diversi di quello che c'erano allora. Allora bastava avere un'altra svalutazione della lira e poi la crescita si riprendeva. Questa non è più un'opzione, quindi bisogna fare le cose strutturali a questo punto. Un'ultima domanda, le dà fastidio essere chiamato Mr. Doom, Mr. Depressione, oppure lo prende come una medaglia, visto che lei e pochi altri, penso Stephen Roach, Stiglitz, avete previsto la crisi prima del tempo? Più che Dr. Doom, io penso che sono un dottor realista, nel senso che l'importante è di analizzare la situazione e cercare di predirla in maniera giusta. Secondo me prima o poi usciremo da questa crisi, quindi io non sono in maniera permanente un pessimista, però bisogna capire quali sono i problemi e fare le politiche le risolveranno. Da questo punto di vista penso che poi le cose a medio termine miglioreranno, ma miglioreranno solo faremo le cose giuste, quindi sono più realista che pessimista, direi. Diciamo un paio d'anni? Certamente i prossimi due anni saranno difficili per l'economia mondiale, anche se la recessione finirà quest'anno a fine anno. Io prevedo che la crescita economica negli Stati Uniti, in Europa, il Giappone, i paesi avanzati saranno molto deboli, molto minore della crescita potenziale, perché vi è questo sbilanci finanziari, eccessivo debito delle famiglie, delle imprese, delle banche, adesso del governo, che in molti paesi sarà un vincolo a quanto la gente potrà prendere a prestito e spendere, consumare e investire. Quindi sarà un periodo di bassa crescita mondiale che avrà anche effetti negativi sulla capacità di paesi emergenti di crescere, perché i paesi emergenti dipendono anche loro dalla crescita del resto del mondo. In sostanza, in definitiva, ci sta dicendo che i costi del salvataggio del sistema finanziario mondiale, l'economia reale, ma anche i cittadini, li pagheranno nei prossimi anni? Sì, in un certo senso c'era eccessivo indebitamento di famiglie, imprese e delle banche, e quello che abbiamo fatto è di socializzare queste perdite private e metterle sulle spalle del governo aumentando i debiti pubblici. Ma aumentare i debiti pubblici non è un free lunch, prima o poi bisogna pagarlo, o aumentando le tasse, o con la tassa di inflazione, o tagliando le spese. Quindi a breve termine bisogna fare questo stimolo fiscale, perché sennò la grande recessione rischiava di divenire la grande depressione. Quindi lo stimolo era necessario, ma a questo punto nei prossimi anni dovremo pagarlo e sarà un processo abbastanza costoso e difficile. Quindi torniamo alla vecchia regola che non esistono in economia pasti gratis. Possiamo almeno dire che in Italia si mangia bene? In Italia si mangia bene, però appunto i pasti non sono gratis e i pasti buoni sono anche cari. Sono le 17:40 minuti, vi ricordo ancora una volta il numero a cui potete inviare i vostri sms, 349-238-6666. Adesso è arrivato il momento di andare a vedere che cosa è successo sui mercati. Oggi lo facciamo in compagnia di Eleonora Micheli, Radio Cor il Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Allora, intanto diciamo che è una giornata che si è conclusa con il segno più, ma che aveva visto, come dire, degli sprazzi più interessanti nel corso di tutta la seduta che non sul finale. Esatto, infatti questa mattina i mercati europei erano partiti ben impostati e nel primo pomeriggio avevano accelerato subito dopo la diffusione del dato americano sul mercato del lavoro. Ha colpito il fatto che nel mese di maggio siano andati persi 345.000 posti di lavoro contro i 520.000 che si aspettavano invece gli analisti. D'altra parte poi i mercati hanno ripiegato, Piazza Affari addirittura scivolata in terreno negativo per una manciata di minuti, poiché ovviamente il dato sul mercato del lavoro americano desta preoccupazione. È vero infatti che sono stati distrutti meno posti di lavoro di quanto ci si aspettasse, ma è vero anche che il tasso di disoccupazione è salito in maggio al 9,4%, ovvero al livello più elevato dal 1983. Eleonora, andiamo a vedere che cosa è successo a Milano. A questo punto partirei dal titolo migliore, che è stato il migliore per praticamente tutta la seduta, Mediolanum, ma chiuso con un rialzo, con un progresso del 7,05%. Esatto, oggi sono stati sotto osservazione un po' tutti i titoli che delle società attive nel risparmio gestito, ma soprattutto Mediolanum. Questo perché sono stati diffusi i dati sulla raccolta del risparmio gestito, che a maggio è stata pari a 1,57 miliardi, ma soprattutto è tornata positiva dopo ben 20 mesi. Ovviamente è un buon segnale per una ripresa dei mercati e quindi sono stati premiati un po' tutti i titoli. Ecco il perché del 7% di Mediolanum. In evidenza anche i talcementi, più 2,69%. Sì, infatti sollecitare diciamo gli ordini in acquisti sui talcementi è stato un giudizio positivo di Goldman Sachs, che ha rivisto appunto il proprio giudizio da negativo a un giudizio di neutral, quindi più positivo, e questo ha dato in là una serie di ordini in acquisto. L'altra del settore, Buzzi Unicem, invece chiude in totale parità. Sì, durante la seduta invece era andata anche in terreno positivo, sono scattate un po' di prese di beneficio anche sull'onda della raccomandazione di Goldman Sachs, che è stata rivista appunto a negativa, ma per il fatto che i titoli avevano corso molto nei giorni scorsi, soprattutto dopo che è stato reso noto che il prezzo del cemento nella Russia ha registrato un buon incremento e la società è molto presente in Russia e quindi ne trarrà sicuramente beneficio. Per quanto riguarda i titoli bancari, dobbiamo parlare di una certa debolezza. Esatto, oggi infatti grande debolezza perché Standard & Poor's ha acceso i riflettori su tutto il comparto, ha lanciato un vero e proprio allarme asserendo che la solidità delle banche italiane è appena sufficiente. Peraltro appunto secondo gli esperti di Standard & Poor's, dopo Unicredit e Banco Popolare, è possibile che sia rivisto al ribasso il giudizio sull'affidabilità creditizia su ben altre 27 banche. Così appunto ci sono stati molti ordini in lettera, molti ordini in vendita su molti titoli bancari. Ha fatto però eccezione Unicredit, che è salita dello 0,7% e peraltro nel durante della seduta ha riagganciato la soglia dei 2 euro che non vedeva dallo scorso ottobre. I titoli poi hanno chiuso a 1,98 euro. Le 17:46 minuti, stavamo analizzando la giornata di borsa in compagnia di Eleonora Micheli, la collega di Radiocor. Eleonora, ti chiedo un discorso più generale sui petroliferi, dopo che oggi il petrolio ha rivisto quota $70 anche per qualche istante superata. Sì, diciamo c'è molta attenzione ai petroliferi, il petrolio infatti è andato su come hai detto tu, ma soprattutto si può dire che c'è uno studio che ha destato molto interesse, ha fatto molto parlare di sé, lo studio di Goldman Sachs. La banca d'affari ha infatti rivisto al rialzo le stime per i prossimi 3 mesi, presupponendo che il valore del petrolio raggiunga i $75 al barile, e quindi questo ha dato in là ovviamente agli ordini in acquisto su tutto il comparto del petrolifero. È stato uno dei migliori in Europa, più 1% il sottoindice Stock 600. Anche a Piazza Affari sono andate molto bene le azioni appunto sia di Eni, che hanno registrato un incremento dell'1,14%, Saipem più 3,97%. Eleonora, io ti ringrazio per essere stata con noi, per averci aiutato a chiarire questa giornata a Piazza Affari. A te buon lavoro. E noi dai mercati ci spostiamo. Parliamo adesso di turismo. Dobbiamo dire che ci fa un po' strano oggi parlare di turismo, visto che fuori piove e che qualche istante fa diluviava, veniva giù davvero tantissima acqua. Però parliamo di turismo e di un comparto particolare, perché parliamo di crociere. E se negli ultimi anni il turismo in Italia ha sofferto e non poco, dobbiamo dire che questo settore invece non ha subito nessuna flessione. Oggi a Genova vengono battezzate le 2 nuove navi del gruppo Costa Crociere, la Costa Luminosa e la Costa Pacifica. Sono stati anche presentati dei dati dell'indotto in Europa e in Italia, e allora partendo dall'Europa possiamo dire che tutto il giro d'affari che ruota intorno alle crociere in Europa nel 2008 è stato di oltre 14 miliardi di euro. I posti di lavoro creati sono stati 311.000. Per quanto riguarda l'Italia, il giro d'affari complessivo delle crociere sull'indotto è di circa 4 miliardi, quello generato da Costa Crociere è superiore al miliardo di euro circa, e questo ovviamente riguarda non solo i posti di lavoro, riguarda anche i fornitori, riguarda le tasse pagate, riguarda tutto ciò che ruota intorno agli aeroporti, ai porti e al trasporto in generale, per arrivare poi ovviamente alla crociera in sé. E allora, per questo particolare evento di oggi, noi abbiamo raggiunto il presidente e amministratore delegato di Costa Crociere, Pierluigi Foschi. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Il successo economico di Costa Crociere, l'impatto che ha sull'economia italiana, è dovuto all'espansione dell'azienda, e l'espansione dell'azienda è dovuta a tutta una serie di misure, incluso quella più importante di tutte, di migliorare continuamente il nostro prodotto e avere come prima esigenza la soddisfazione dei clienti. Quindi, avendo la soddisfazione dei clienti, continuando a migliorare questa soddisfazione, consente di espandere l'azienda su basi globali, internazionali. Costa Crociere non è soltanto la prima società di crociere in Europa, ma anche la più internazionalizzata se si misura la fonte dei nostri clienti, cioè da dove i nostri clienti provengono, da oltre 100 paesi diversi. Quindi, al primo posto, il successo è dovuto alla grandissimi investimenti e costante osservanza della qualità. Era di fatto un prodotto molto elitistico, riservato a pochi, era più considerato un viaggio, e poi si è via via evoluto fino a diventare una vacanza che si può ripetere anche 2 o 3 volte all'anno sempre sulla nave, e quindi questo giustifica il tasso di crescita, lo spiega meglio il tasso di crescita che è avvenuto, che negli ultimi 10 anni in Europa ha visto un tasso di crescita del 10% e più ogni anno. Pensi che esiste un mondo che ha questa, dove c'è la predisposizione di fruire le vacanze, il tasso di crescita del 3-4%, mentre le crociere in Europa oltre il 10% all'anno. Lei diceva si può fare anche più di una volta l'anno un viaggio o comunque una vacanza di questo tipo. Questo perché la crociera, diciamo così, è un lusso, tra virgolette, accessibile un po' a tutti? Certamente. Intanto si può fare più di una volta all'anno perché la crociera riserva sempre delle sorprese. Lusso accessibile, come lei diceva, perché è la crociera a portata quasi di tutti, è una crociera che nel panorama turistico rappresenta un prodotto molto competitivo e dove il valore per il prezzo che si paga è reputato molto molto alto. Presidente, oggi vengono tenute a battesimo due ammiraglie nuove, la Luminosa e la Pacifica, in totale quindi arriviamo a 14, se non sbaglio, navi da crociera per costa. La riflessione che si fa sul settore è che se flessione c'è stata, a sentirla è stata più che altro la cantieristica. Nel 2008 Fincantieri ha ricevuto ordini solo per 3 navi di dimensione superiore a 10.000 tonnellate contro le 16 del 2007. Io le chiedo a questo punto, per Costa, quali sono i progetti futuri per le nuove ammiraglie? Costa aveva lanciato alcuni anni fa, a cavallo dal 2006-2007, un programma di espansione notevole, piazzando 5 ordini, 5 navi in ordine a Fincantieri. Di queste, le due navi che ha citato lei, Costa Luminosa e Costa Pacifica, sono state consegnate nel giro di un mese e prese in consegna da noi nel giro di un mese e che vengono battezzate oggi. La Costa ha ulteriori 3 navi, tutti in portafoglio di Fincantieri, che assicura lavoro fino al 2012 nel cantiere di Marghera. Fincantieri ha più di un cantiere, ha comunque ancora un buon portafoglio ordini di navi crociere, soprattutto del nostro gruppo, non tanto solo Costa, ma il gruppo Carnival che anche a quale noi vediamo. Quindi Fincantieri è giustamente preoccupata perché recentemente questa crisi, che è stata una crisi prima finanziaria e poi economica, ha portato a un calo dei consumi che il nostro mondo occidentale non aveva mai avuto esperienza nel passato. Quindi da qui il timore da parte dei gruppi armatoriali, soprattutto nel settore delle crociere, ma non solo, anche nel settore commerciale, nel trasporto, nei cargo, nelle porta container, nelle petroliere, ha visto un calo degli ordinativi di navi praticamente vicino a zero. Forse si contano solo su due mani il numero delle navi in totale ordinate e 0 navi da crociere fino ad ora. Il futuro dipenderà, noi come gruppo parliamo sempre con i costruttori di navi, con Fincantieri ma non solo, ci sono delle discussioni che potrebbero risultare in azioni concrete per continuare a investire, non sono di immediata realizzazione. Costa Crociere, come ripeto, c'è un programma fino al 2012 di costruzione di navi e stante il ciclo di costruzione, i tempi di costruzione, noi siamo molto a posto, abbiamo tempo fino al 2010 per decidere. Altre marche nel gruppo Carnival non hanno ordini in questo momento per Fincantieri, non posso dire di più perché essendo una società quotata in borsa pubblica non posso dare notizie che non so se non sono fatte un disclosure generale. Certo. Senta Presidente, oggi credo sia una buona giornata anche per la firma del contratto con la Banca Europea per gli investimenti, un finanziamento da 550 milioni che credo vada proprio a cadere su questo piano quinquennale di cui lei parlava qualche minuto fa. Certamente, un grande sostegno, un finanziamento cospicuo, un grande lavoro fatto in accordo con Fincantieri nei confronti della BEI, grande qualità nelle persone che all'interno della BEI hanno esaminato il nostro file e assieme a noi hanno condotto la due diligence, perché è la prima volta che l'attività crocieristica, un'azienda nel settore crocieristico, viene finanziata dalla BEI. Quindi è stato anche quello un primo, così come un primo, un record mondiale, inaugurare due navi nello stesso momento. 550 milioni vanno a sostegno dello sviluppo futuro in termini economici di investimenti di Costa Crociere. Voi operate anche in altri paesi europei attraverso altre società, mi viene in mente la Spagna e se non sbaglio anche la Germania? Sì, Costa Crociere come gruppo ha 3 marche, la Costa, AIDA in Germania, dove siamo i leader del mercato tedesco, e in Spagna alla fine del 2007 abbiamo fatto l'acquisizione di questa società che abbiamo chiamato Ibero Cruzeiros, che ha tre navi sul mercato spagnolo e sul mercato sudamericano quando là è estate e da noi inverno. Ibero Cruzeiros abbiamo firmato recentemente, settimana scorsa, l'acquisizione dell'ulteriore 25% che non ci apparteneva, ed siamo in procinto di fare il filing, di sottoporre all'approvazione all'autorità sulla concorrenza in Spagna, e presto un'approvazione, quindi materialmente acquisire il 25%, oggi è ancora soggetto a approvazione da parte dell'autorità sulla non concorrenza spagnola. Sono le 18:08, ben ritrovati sempre in compagnia di Focus Economia. 349-238-6666 il numero a cui potete inviare i vostri sms. E allora, ci sono ancora altri temi da approfondire in questa seconda parte di Focus. Prima però vi voglio ricordare che oggi il petrolio ha sfondato quota $70 al barile, a New York l'ha superata per qualche minuto, poi ha ritracciato leggermente, si è attestato sui $69. Voglio anche ricordarvi che oggi l'Euribor si è attestato a 1,27 in lieve rialzo rispetto ai giorni scorsi. E poi ancora velocemente voglio dirvi che cosa è successo sui mercati in Europa, con Parigi che ha chiuso con un rialzo dello 0,82%, Francoforte dello 0,24%, Londra ha guadagnato poco più di un punto percentuale. Più debole Milano, dove il FTSE All Share ha guadagnato lo 0,22%. Ricordiamo che il FTSE All Share è il MIBTEL, quello che noi abbiamo conosciuto in questi mesi come MIBTEL, con un paniere lievemente ridotto intorno ai 250 titoli, mentre il FTSE MIB è l'S&P MIB, ha chiuso con un rialzo dello 0,20%. Il miglior titolo è stato Mediolanum, più 7,05%, seguito da Saipem, più 3,97%, Italcementi ha guadagnato il 2,60%, Mediobanca il 2,40%. In fondo al listino invece Mondadori, il peggior titolo, ha ceduto il 4,25%, Lottomatica meno 2,28%, la Banca Popolare di Milano meno 1,78%, Atlantia meno 1,33%. Per quel che riguarda i cambi, una lieve debolezza dell'euro su dollaro, il cambio in questo istante è 1,39,93, quindi sotto quota 1,40. Il massimo era stato poco superiore a 1,42. Adesso andiamo a un altro appunto dei temi di approfondimento, che è strettamente legato anche all'andamento dei mercati di oggi. Parliamo della disoccupazione negli Stati Uniti. Siamo in collegamento telefonico con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che saluto. Per me una buonasera Marco, per te un buongiorno. Sì, buonasera a voi. Allora, partiamo appunto proprio da questi dati, Marco. Il tasso di disoccupazione a 9,4%, il massimo da 25 anni a questa parte, anche se a maggio i posti di lavoro perduti sono stati 345.000, meno di quelli previsti dagli analisti, che parlavano di poco più di 500.000 posti di lavoro persi. Un dato doppio, a doppia lettura, che infatti ha influenzato anche i mercati. Sì, sicuramente un dato che ha due volti, anche se il volto, diciamo così, più evidente, più sotto i riflettori è sicuramente è quello quello diciamo sul numero di posti di lavoro persi. La frenata della flessione nei posti di lavoro svaniti eliminati dalla recessione rappresenta un segnale incoraggiante, tutto sommato, della stabilità di una stabilità forse a questo punto una maggior stabilità forse a questo punto in arrivo per l'economia americana, che può far quantomeno sperare in una fine dell'evento peggiore della recessione e in una per quanto lenta ripresa a venire, come ha indicato la Stata Federal Reserve, forse già a partire dalla fine di di quest'anno. Ecco, va sottolineato appunto il termine però lenta e sicuramente difficoltosa, due aggettivi che sono in sintonia con l'altro volto così del dato, l'altro aspetto del dato che ricordavi tu, cioè il balzo, l'impennata del tasso di disoccupazione al 9,4%, a livello più elevato in 25 anni. Questo diciamo è il segnale più evidente che le difficoltà sul mercato del lavoro, anche in presenza di una maggior stabilità dell'economia, anche in presenza di segnali così di qualche recupero, ecco, il mercato del lavoro rimane fragile, rimane debole, continuerà a soffrire e quindi continuerà a tenere diciamo la museruola su qualunque ripresa e a renderla particolarmente sofferta. Specificamente l'aumento del tasso di disoccupazione è stato causato da un doppio fenomeno. Da un lato la perdita di posti di lavoro ricordata, seppur diciamo inferiore alle previsioni, dall'altra un ingresso particolarmente forte di americani sul mercato del lavoro attivo, 350.000 nell'ultimo mese. Ecco, questa combinazione ha così provocato, spiega diciamo il balzo del tasso di disoccupazione. Marco, qualche minuto fa le nostre agenzie hanno battuto una dichiarazione di Joe Biden, del vicepresidente, il quale afferma che lunedì Barack Obama annuncerà un rafforzamento del piano economico. Volevo sapere se voi avete maggiori dettagli, se sui giornali americani si è già parlato di questo, se sono già emerse appunto dettagli maggiori. Ma l'amministrazione è impegnata tuttora in vaste manovre di stimolo dell'economia, di riforma delle regolamentazioni dei mercati e in continui, diciamo così, aggiornamenti e rafforzamenti e correzioni di rotta proprio per continuare la manovra di stimolo. Quindi sono sicuramente in arrivo, anche se al momento ancora così dettagli specifici sulle nuove iniziative top secret, diciamo. Mancano, esatto. Però ecco, c'è uno stillicidio, continua a esserci l'impegno dell'amministrazione un po' a una collezione di iniziative a mantenere, diciamo così, a mantenere l'iniziativa in modo aggressivo proprio perché diciamo è c'è la coscienza che comunque anche di fronte a segnali di maggior stabilità dell'economia, certo, le difficoltà restano, i rischi di spirali ulteriori di crisi restano e quindi diciamo Obama e la sua amministrazione non hanno intenzione, diciamo così, di abbassare la guardia, ecco, di fronte a questo, sul fronte immobiliare, come sul fronte del credito, come sul fronte della riforma delle regolamentazioni. Certamente, mai mollare la presa, quindi staremo a vedere se lunedì ci saranno degli annunci ufficiali. Grazie a Marco Valsania in collegamento da New York. Le 18:17 minuti, siamo arrivati davvero all'ultima parte di Focus Economia, ultimo tema di approfondimento. Abbiamo voluto tornare ancora una volta sulla vicenda Fiat Opel. E perché lo facciamo? Perché c'è ancora un po' di confusione su questo tema, non si capisce molto bene quali siano le mosse future, anche diciamo ciò che pensa attualmente il governo tedesco sulla scelta fatta a proposito del piano preferito, quindi quello degli austro-canadesi di Magna per la casa automobilistica tedesca. Questa mattina proprio su questo tema ovviamente è tornato l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne, il quale ha detto che l'interesse per Opel rimane, non dipende da noi, però ha detto Marchionne, se arriverà questa telefonata dalla Germania la Fiat sarà pronta, ma altrimenti non ci sono eccessive ansie da parte dell'ingotto. Per quanto riguarda l'operato del governo italiano, Marchionne ha detto che il governo ha fatto quello che doveva, sentiamolo. La disponibilità della Fiat a entrare in un discorso intelligente, industriale, logico con la Opel rimane sempre. Quindi siamo convinti di tutte le proposte che hanno ricevuto, la nostra era l'unica che aveva quegli elementi là. Se il governo tedesco è disposto ad ascoltarlo di nuovo, sono più disposto a riaprirlo. Io credo che il governo italiano, con tutto quello che si è detto in giro, ha fatto quello che è stato lontano da questo problema e deve continuare a stare lontano fino a quando non assume una proporzione vera. Cioè, al momento, quello che abbiamo chiesto noi al governo tedesco è quello di dare 6 miliardi di finanziamenti o perlomeno di appoggio, di garanzie alla nuova entità. E credo che è un sistema di garanzia che deve essere messo su dal governo tedesco insieme a altri governi europei, quindi lo spazio per il governo italiano di giocare in quella partita là c'è. Se l'operazione non va a porto non c'è nessuna necessità di farlo. Chi ci chiede che cosa succederà col fallimento di GM, intanto possiamo dire questo, che General Motors prevede di tornare in utile nel 2011 e che il valore del gruppo raggiungerà i 48 miliardi di dollari. Questo è quanto scrive il Detroit Free Press, citando le prime stime presentate da GM nel quadro della procedura per la bancarotta pilotata. E a proposito di GM e Opel, secondo Handelsblatt, il quotidiano tedesco, diventa più cara per la Magna l'acquisizione della Opel, molto probabilmente. La casa automobilistica tedesca dovrà sborsare alla General Motors oltre 7 miliardi di euro nei prossimi 10 anni per sganciarsi completamente dalla casa madre. Noi abbiamo chiesto al professor Giuseppe Berta, economista dell'Università Bocconi ed editorialista della Stampa, che cosa pensa di tutta questa vicenda, appunto un po' complicata, un po' confusa, e anche dei rapporti tra Fiat e GM e eventuali nuove alleanze tra Fiat e altri gruppi. Sentiamo. L'interesse della Fiat è indubbio. C'è da dire che la situazione in Germania a me pare molto confusa e temo che bisognerà attendere un po' di tempo prima che la confusione si riduca, nel senso che la prospettiva delle elezioni di settembre rende tutto più complicato. La trattativa con Magna ha preso un'accelerazione per il fatto che una parte notevole del sistema tedesco, diciamo quella che fa capo ai sindacati, ad alcuni governatori di territori dove le fabbriche Opel sono insediate, al Partito Socialdemocratico, la proposta di Magna andava bene per una sorta, diciamo così, di maggiore consonanza culturale, no? E soprattutto perché sembrava che le conseguenze di riduzione di intervento sulla capacità produttiva e sull'occupazione potessero essere molto contenute, ammesso che la casa austro-canadese prendesse il sopravvento. Però diciamo che Magna in questo momento ha deluso le attese, la sua è una cordata tutt'altro che chiara, molto opaca, sia quanto alle possibilità finanziarie sia quanto all'indirizzo strategico. Al contrario, la proposta di Fiat, il piano industriale di Fiat, aveva il pregio di una grande chiarezza strategica, che non nascondeva certamente che anche sarà necessario affrontare dei costi, cioè ridurre dei posti di lavoro, tagliare il numero di stabilimenti Opel e così via. A questo punto bisogna vedere se la preferenza per Magna continuerà a caratterizzare i decisori tedeschi, oppure se una certa delusione per il comportamento successivo della Magna potrà indurre a ripensare l'interesse, un eventuale interesse per la Fiat, per la proposta Fiat. Io credo che sul punto, dal punto di vista industriale, la proposta Fiat sia alquanto più solida, anche perché dall'altra parte, diciamo, c'è una certa vaghezza di intenti. Magna è un sistemista, un specialista della fornitura auto che vuole compiere il balzo e diventare produttore finale. Ma anche l'ipotesi di poter ripristinare la redditività di Opel entro il 2011 sembra quanto azzardata. Invece il piano di Marchionne, secondo me, è molto più solido. Senta, professore, lei parlava di maggiore consonanza culturale per quanto riguarda Magna. Forse per i profani e da parte dei profani è stato visto il piano Magna come un piano più finanziario, per cui forse per questo è piaciuto di più ai tedeschi, perché portava soldi freschi da subito, a differenza del piano Fiat che invece è un piano proprio industriale. È piaciuto per due motivi. Il primo è che adombrava la possibilità, voglio usare questa espressione vaga apposta, che ci fosse una possibilità finanziaria maggiore dovuta all'accordo con le banche russe. ma dall'altra parte c'era la promessa di mantenere quasi inalterata la struttura occupazionale e la capacità produttiva in Germania, intervenendo invece sugli altri stabilimenti Opel, quelli del Belgio, del Regno Unito, inglese e così via. Ecco, è questo elemento che è stato premiante. A me sembra invece che in ogni caso una macchina come quella della Opel, che è una struttura industriale abbastanza provata da anni di risultati insoddisfacenti, debba essere rivista da cima a fondo. Per tornare a Fiat, a questo punto nuovamente Marchionne ha espresso grande soddisfazione per l'accordo su Chrysler, però c'è necessità di guardarsi ulteriormente intorno. Su Saab ha già detto le possibilità sono minime. A questo punto, secondo lei, qual è l'orizzonte su cui si affaccia, su cui si dovrebbe affacciare la Fiat? L'orizzonte è complesso, perché la Saab ha prodotto, se non sbaglio, pochissimo l'anno passato, direi sotto le 100.000 vetture nell'arco dell'anno. Dunque non sono numeri che cambiano la presenza di mercato di un gruppo dell'auto. Dall'altra parte la Chrysler ha accusato un risultato meno negativo nel mese di maggio sul mercato americano rispetto ai mesi precedenti, ma anche il mese di maggio, che è stato il mese migliore, fa segnare meno di 80.000 auto vendute. Questo vuol dire che oggi la vendita delle auto con il marchio della Chrysler in America è inferiore al milione di vetture all'anno. Dunque Marchionne deve prestarsi a un lavoro molto duro, perché si tratta di rifare da cima a fondo l'organizzazione di un'impresa che ha perso mordente e ha perso presa sul mercato americano. Io credo ci sarà, da questo punto di vista, moltissimo lavoro da fare. Nel medesimo tempo la Fiat non può tralasciare la possibilità che si delineino altre chance di alleanza, altre integrazioni. Abbiamo visto che però General Motors non intende cedere le attività latinoamericane, e a questo punto non intende cedere altro, perché altrimenti il rischio che l'azienda evapori, stante la procedura di fallimento concordato, è molto elevata. Per quanto riguarda Peugeot, secondo lei ci sono delle chance? Mi sembra difficile, perché il discorso con PSA, che si è avviato tra la fine dello scorso anno e l'inizio di questo, ha poi subito delle battute d'arresto. C'è stato anche un cambio di vertice alla guida della Peugeot, e diciamo la Peugeot ha contestato l'affermazione di Marchionne, secondo cui per creare un gruppo automobilistico capace di tenere il mercato, di reggere con sicurezza il mercato, bisogna superare la soglia di 5 milioni di vetture e posizionarsi piuttosto vicino ai 6. Questa linea, ancora detto recentemente, Peugeot non è condivisa. In ogni caso, secondo me, un'eventuale alleanza tra Fiat e Peugeot sarebbe, dal certo punto di vista, ancora più complessa che con Opel, perché Opel è comunque un'azienda che fa parte di un gruppo che è fallito, e invece PSA è un gruppo vitale e ha una forte proprietà che non credo accetterebbe di essere relegata in una posizione di seconda importanza. Siamo arrivati davvero in chiusura. Prima però di salutarvi, una precisazione a chi ci chiede: Fincantieri fa parte di Finmeccanica? No, sono due società completamente diverse. Fincantieri è controllata da Fintecna, che è interamente controllata a sua volta dal Ministero dell'Economia, quindi tutto pubblico. Finmeccanica invece è una società quotata in cui il Ministero dell'Economia ha una quota poco superiore al 30% circa. Io ringrazio in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, in regia Filippo Aureggio. A tutti voi l'augurio di un buon weekend.